Bene, no, non è gonfio, è che gli ho fatto provare un balsamo per umani, non per animali, si chiama balsamo cavallo, ed è un balsamo che praticamente è meglio della medicina, secondo me, perché non è una medicina, però ti scalda molto il muscolo e te lo tiene caldo per qualche ora. Tant'è vero che quando ti fa male qualcosa è perché c'è il muscolo che, insomma, è compromesso. Muscolo freddo? No, vabbè, a me altre volte mi fa male il ginocchio, mi metto quello lì, me lo scalda, me lo allivia e l'indomani posso stare tranquillo. Non è una medicina, è un balsamo. Sì, già me l'hai fatto vedere come, qual è. Me l'hai fatto vedere qual è. Ma le tue tia scaldano le radio, si attaccano le ventole? Certo che sì. La mia addirittura c'è anche cosa sopra, figurati. Io le uso come tavolino certe volte. Sì, questa è la ventola accesa. No, ok. Io devo decidere di andare a farmi vedere questo coso della sciatica, perché mi sta un po' stressando. Però piano piano facciamo tutto, piano piano si fa tutto. Ti volevo dire una cosa, però non me lo ricordo. Ti mando un messaggio stanotte alle 2:30. Sì, ma alle 2:30, che molto sicuramente ti risponderò. Ehi, Ale, verso quello ti mando il messaggio. No, è una cosa che poco fa ho detto, gli devo mandarglielo dopo glielo dico invece. Nella mia testa sta iniziando ad andare a, come ogni anno, adesso inizia ad andare a brodo. Ah, te ne sei dimenticato? Sì, me ne sono dimenticato, non perché te lo voglio dire alle 2:30, perché proprio me ne sono dimenticato. Adesso inizio ad andare a brodo con la testa a non ricordarmi. L'anno scorso non mi ricordavo neanche la mia data di nascita. Va bene, dai, quando te lo ricordi mandalo, poi già lo leggerò domani mattina, ma verso le 6. Ti sto dicendo, ma tu a me lo... Io l'anno scorso non mi ricordavo la data di nascita, ma proprio ho detto, guardi, quando me la ricordo gliela dico. Ma guardate, mentre qui stiamo prendendo in giro, guardi, proprio la persona quando dice, quando pensa a certe cose te ne accorgi, no? Ho detto, guardi che io non la sto prendendo in giro, io me lo ricordo veramente. Cioè ad agosto eravamo sciolti. Un giorno stavo andando a casa di mamma mia a dormire, ho detto, non disso gandenti. No, a me invece capita con le vie. Porca miseria, io sono negato per le vie. Magari ci sarò passato miliardi di volte. Se mi dico a via, ma cavolo è? Devo fare mente locale, cercare di... Oppure mi metto, per evitare queste cose qua, mi metto direttamente il navigatore. Ti capita mai di finire la chiamata, no? Di telefonare. Va bene, ciao, prendi e chiudi, magari io sto parlando con te, no, e chiudi tu. Camminando per altri 30-40 secondi col telefono nell'orecchio. No, quello no. A me sì. Però poi da settembre, da ottobre in poi queste cose mi passano. E rimane scioccato un altro mesetto. No, ma mi succedono cose assurde, assurde. Guarda, quella cosa della data di nascita mi ha preoccupato, perché ho detto, caspita, porca miseria, non mi ricordo la mia data di nascita. Pensa un te va più lungo il bidon. No, a me mi è capitato, ripeto, le vie, poi del resto, diciamo che bene o male mi ricordo quasi tutto, però le vie sono quelle che mi danno fastidio. Perché non hai senso dell'orientamento. Non hai senso dell'orientamento, cioè ci sei stato, però magari ti ricordi più una cosa, se per esempio ti dicono mica c'è un negozio di alimentari così e così, e allora mi dici, ah sì, ok, perfetto, però mai non sai il nome della via. No, anzi, il senso dell'orientamento sì, anche troppo, perché io sono stato un po' di anni cacciatore, per dire, molte volte andavamo nei posti dove la macchina tu la perdevi, e tu pensi una volta per dare ascolto agli altri, dicevo mica state sbagliando, siamo stati tre ore camminando al contrario di quello. Alla fine ho detto, beh, ascoltate, fate una cosa, io adesso mi siedo e voi cercate qualcheduno per riportarci la macchina, guardate che la macchina è dietro alle spalle nostre. Ma cosa stai dicendo, io segui, no, vai, fa una cosa, vai, là c'è la strada, mi ha detto, vai, cerca qualcuno che ti dia un passaggio. Beh, lo sai che buonanotte compare, mi ha detto, compa, avete ragione. No, ma non intendevo il senso dell'orientamento, che non sai camminare nei posti. Il senso dell'orientamento, forse mi sono espresso male, memoria di localizzazione. Questa è la memoria di localizzazione. Per esempio, perché se io ti dico andiamo in via Pascoli, tu mi dici via Pascoli, e guarda dove c'è il rifornitore che poi vai verso il ponte, verso il mercato. Ah, ok, va bene. Però vai, il nome della via non te la ricordi. Ah, vabbè, può capitare, sì, quello sì. Io sono peggio di te, ma peggio, io proprio vie, io per sempre, io dentro Sassari, navigatore, non mi interessa niente. Non è che devo stare di lì, è un DE, il civico, no, navigatore, sempre, sempre, uguale, non ne voglio sapere. No, vabbè, molte volte, adesso per dire, te la racconto una, è successo domenica scorsa, il dentista, non voglio fare nome, cognome, comunque, è un dentista, praticamente è venuto con la macchina d'epoca, non metteva più in moto quando siamo arrivati noi, l'ho salutato così, e tu c'è, vabbè dai, comunque sta venendo, sì, sta venendo, va a mettere in moto, non parte la macchina, mi ha detto, io facciamo una cosa, accompagnami in tale via, ed entrare via, di cavolo, e boh, ho detto, io vedo, sì, mi faccia la strada. Beh, quella via dove abita lui ci sono andato una marea di volte, perché poi è la via dove ho il patronato io, quindi vado spesso lì, e lui abitava proprio di fronte, mi poteva aprire la testa in due, non sapevo dove stavo andando. Mi capita, anche a me mi capita. Ah, ecco cosa ti volevo dire. Ma avevi quell'8.50 tu? Avevo l'8.50. Il BMW. Ah, no, avevo il Mercedes 200, quello lì ce l'aveva Walter. Quella è bella, quell'8.50 è bello, quell'8.50 è un macchinone. Ce l'aveva uno vicino a casa di mia madre, però era rosso. Il padrone della Matterland. Ah, ma chi, Mariolino? Non mi ricordo se si chiamava Mariolino. Forse era di Corrado. forse era di Corrado che aveva un appartamento di lì, Vettore Sacchi, forse era di Corrado. Beh, Maiorino è quello che è padrone dell'autoscontro, eh? Allora è lui, sì, è lui, bravissimo, è proprio il padrone dell'autoscontro, cioè è lui. Allora tu pensi che di quello ne ha due, una blu che è molto migliore di quella rossa che hai visto tu, con due scarici in acciaio inox, un rombo fuori da paura, bellissima, bellissima. Quella la devo prendere io, solo che non era immatricolata. No, caspita, quella serie BMW è bella veramente, è uno dei pochi BMW che mi piace, uno dei pochi BMW che mi piace. E quella macchina, quella macchina da comprare non ti bastano 45.000 euro adesso? Non lo so, questo non parliamo di queste cose, anche perché a me sinceramente non piace parlare di queste cose qua. Ce l'ha, l'ha presa, va bene, usiamolo, ma poi non ne vado matto io di... A me piacciono più le moderne, capito? No, parlare di cosa? Anche oggi tu vale 45.000 euro. Sì, noi siamo proprio vedendo di cazzo di lacci, scusando la parola. È una macchina che non ha mai perso il suo valore nel mercato. Poi sono macchine che hanno il suo fascino. Hanno il suo fascino, bella, bella, bella. Sì, blu la preferisco. Blu la preferisco, blu o nera, o grigia anche. Però bella, bella, bella, bella, bella, bella. E vabbè, vai. No, forse mi hai capito male. Non ne parlo di queste cose con lui, cioè non gliene chiedo quanto vale, quanto non vale, quindi non lo so, capito? Ah, no, è già è una cosa molto valutata, cioè molto valutata, non è il fatto di valore economico anche, quello è il fatto di valore, sicuramente ha qualche targa oro, qualche targhetta oro, perché erano vetture con a serie limitata. Sono come le Lancia Delta integrali, quella roba lì, mi segui, sono a versione limitata, quindi se ne ha due saranno numerate proprio dalla BMW, perché non ne hanno fatto tante, almeno per il mercato europeo, poi in Germania ce ne saranno da buttare, però per il mercato europeo non hanno fatto tantissime di quelle. E quindi eri in Mercedes. Sì, la cosa bella di quella macchina, i sedili, cioè ero sopra un divano e se c'era qualche fosso aveva gli ammortizzatori, troppo bello, troppo bello. Non cammino un cacchio, cioè la macchina ormai adattata, perché ho preso prima l'Alfetta, preso l'Alfetta, l'ho portata dove c'erano le altre macchine e metto, aspetti, te la prendi quella lì che è più comoda, perché ero con Nicolas. Ho detto, vabbè, anche l'Alfetta già andava bene, però a me sinceramente non mi interessa, qualsiasi, c'era la Fulvia, ho detto no, la Fulvia non è biglia, che proprio non mi piace. Non mi piace come macchina, non mi piace come guida, insomma. C'era la X19. Che però molto scomoda. Andiamo bene quella lì. Il Mercedes è comodo. Mercedes è comodo, soprattutto quelli un po' adattati. Ma ti sei mai seduto, Tino, in una Citroen, in un Citroen Pallas? No, mi sono seduto, non so se si chiama lo stesso, nella Citroen, lo squalo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Ma hai visto la sedia di quella macchina? Ah, sono come le poltrone io qua. Cioè, quella macchina, a parte il fatto che ha un sistema di ammortizzatori che fa paura, cioè quella macchina tu prendi l'avvallamento non lo senti, lavora tutto il sistema che ha, si chiama il polpo, sistema idraulico. E poi Io quando mi sono seduto in quella macchina ho detto: è una cosa impossibile. L'unica cosa di scomodo che ha quella macchina che non mi piaceva è che non aveva appoggiatessa. Perotti, quel sedili era come coricarti in un letto. Sì. No, vabbè, io a parte guidando si stava comodissimo, no? Poi aveva l'idroguida anche, quindi è già una macchina, diciamo, recente, cioè antica ma recente nello stesso tempo. Sì. Non è a Pallas? No, no, non lo so neanche se le piace averla, boh, perché al, come si chiama, quella macchina dei gangster, come si chiama? Dei gangster, boh, ma la Cadillac? La Cadillac ce l'aveva, l'ha venduta, quella benzina, che ti puoi immaginare. No, la Citroen, quella nera che si usava negli anni con i Mitra. Ah, il coso. Il si trova il CX. Non lo so, guarda, l'avevo postata io forse qualche anno fa. Nelle mie foto ci dovrebbe essere, quelle che ho condiviso. Adesso non fa a cercarla, però. C'è quella, poi c'è la 600 familiare, la 500, cosa c'ha? Neanche fuori, neanche, miscia. Mentre invece, chi è di fronte a lui, un altro capannone di fronte a lui, ha un bel parco macchine tipo Corvette, Ferrari e quant'altro, non so quante ne ha dentro. Sì. Ah, ma tu stai dicendo proprio quelle le macchine a musone col farottondo, proprio la Citroen, quella vecchia? Quella che si aprono, il cofano si apre, metto da una parte e metto dall'altra, e il cofano è davanti. E il cofano da lì gabbiano, sì, ho capito. Aspetta, quella è bella lo stesso, nera. Io conosco uno in continente che, se sai cosa colleziona, fa collezione di carro funebre. No, quella è bruttissima, quella collezione lì. Invece la collezione di carro funebri è pazzo, ma ha dalla carrozza fino a quegli anni 2000, dai. Ne avrà 150, tutti in un capannone, carro funebre, il 132, il mi faccio mandare le foto, perché ha una foto che me l'aveva mandata vista dall'alto, sembrava un cimitero, tutto pieno di grosso in terra. Per carità, no. Vabbè, gli appassionati sono così. È quello che fa collezione di carrozze da cavallo, quello che fa, purtroppo c'è. Ci sono collezionisti, diciamo, che hanno passioni strane. Quello che ha la collezione, cosa ti posso dire, è quello che colleziona giornali di Topolino, quello che colleziona giornali di Landog. Questo qua di carro funebre, è un pazzo scatenato, ma tu lo vedi, lui non è che è di quelli strani che si veste, normale. Ha detto, biglia, va la collezione. Ne ha dato anche qualcuno per fare qualche film o qualcosa. Certo. E vabbè, sì, queste macchine qua, poi vabbè, molte volte le cercano anche per matrimoni, queste cose qua, ma io non sono materialista, mi piacciono altre cose. Sì, anche a me piacciono altre cose, però vedi, trovi qualcuno che si vuole sposare, magari lui c'ha il Ferrari, ha qualche macchina in particolare, quanto la vuoi per un giorno? Per un giorno la voglio 500 euro, dammela, uno prende e se la fitta, e anche quello è un business, anche qua non c'è neanche il, diciamo, l'andazzo, perché se vai in continente cercano le macchine, più le macchine per sposarsi le cercano e ci tengono. Io così qui vegano i buru a regatta. Sì, sì, infatti. No, vabbè, io ho un amico che poi è una sorta di socio minoritario di quello lì, mi sembra che ha una, che macchina, devo dire in fretta, non lo ricordo, la Jaguar. Sì, sono... A Olbia c'è un cinese che le affitta i Ferrari, Lamborghini e queste macchine qua. Sì, e vedi, magari, no, lui non credo che la darà mai, cioè, a meno che la guida lui, ma deve essere, credo, cioè bruciarsi la giornata per accompagnare una persona che non conosce, deve fare di domenica e per giunta deve essere in compagnia di altra gente che conosce, se no non avrebbe fatto mai. Sì, no, invece a quel cinese prendi, paghi e te la porti via. Paghi, non so quanto devi dare di caparra, comunque. La tieni 24 ore. Non lo so come funziona, comunque c'è, è a Olbia. Bah. Io dove non mi sposerò, sicuramente non mi sposerò con un'auto di lusso, ma molto probabilmente dovendo fare una nozza di quelle come si deve, a cavallo. Sì, ma io, mio, oramai io non mi ricordo neanche che macchina avevo io, lo sai. Però era una macchina importante, perché allora era, l'aveva portata Antonio Pinguino, che mi ha portato, era un Opel, però l'ultima uscita, ti parlo nel 2004. Sì, sarà stato un Opel Omega, sarà stato un Opel Omega. Vabbè. Io faccio altri due passaggi e poi me ne vado a nanna, così mi rilasso appena il cervello. Andavè, per me non c'è problema, tanto adesso mi preparo la roba da lavoro e poi niente, ti ho dato a mangiare, questo qua praticamente ho messo crocchette e una scatoletta di grande, divisa in tre, alla selvaggina, carne alla selvaggina, si è fatto fuori la carne alla selvaggina, le crocchette dovrei già le lasciare domani. Sì, ma loro hanno mangiato pasta con lo spezzatino, pasta con lo spezzatino, quindi hanno mangiato tranquilli. Oggi non avevano crocchette perché, porca miseria, ieri mi sono dimenticato di prenderle. E stamattina hanno fatto il digiuno, sto sempre mangiando. Sono spianatina, un panino, o un pezzo di gaggio, una cosa l'ho sempre mangiato, quindi già non ne fanno fame. Adesso mi è ricordato, devo chiamare il veterinario e farmi dare la simparica Trioti, la 4060, perché adesso la devo ridare. Adesso fino a settembre la prendono loro. Quella per cos'è? Fa tutto, Tino. Fa tutto, zecche, zanzare, pulci, rogna, tutti i parassiti fa, è una pastiglia, è una, cioè in un pacco ce ne sono tre, sono 40-60 kg l'una. Io prendo, si accontentano, e una gliela divido in due, e un pacco mi fa tre mesi, costa 60 euro. Ce ne vogliono due pacchi per arrivare, due pacchi e mezzo, dai, per coprirli tutti. Poi d'inverno gliela tolgo. Ho capito. Mandami una fotografia della scatola, così almeno, tanto fra qualche giorno deve venire di nuovo. E vedo un po', perché adesso vabbè, gli sto dando le medicine per le smanie, quindi. Non credo che si possa abbinare con questa cura che sta facendo. Dopodiché dovrò dare il mantenimento che sarà per sempre. Però metto, ti costerà 2 euro la scatola, ma ce ne sono tante, non è un problema quello, è proprio minima la spesa del mantenimento. Così almeno gli dico se si può dare cosa. Lui mi ha consigliato un buon collare e basta, però sai. Io ti la pastiglia, perché almeno il veterinario mi aveva consigliato quello. La prima volta che gliel'ho data mi aveva detto di tenerlo sotto controllo un'ora, il cane, capito? Ho detto gliene dai metà, e lui, il mio, il fornese, lo prende da quando è piccolo, eh. Ho iniziato quella per i cuccioli e poi quella per i cani di taglia media, poi quella per i cani di taglia grande, e così ho fatto per Wolf, per l'altro, e la prendono tutti e due. Il periodo estivo la prendono tutti e due, perché zanzare, queste cose qua, gliela do. Alla fine ho visto che c'ha appresso alle voci, risparmi, perché una pipetta costa 30, cioè una scatola di pipette di Frontline costa 30 euro e ce ne 3 e fanno un mese. No, proprio non m'ha consigliato le pipette, è stato specifico, ha detto un buon collare antipulci, non fare sì le pipette, ma il collare antipulci. Ho detto guarda, io ho ordinato da internet questo Seresto, mi ha detto sì è buono, però mi ha detto fa 3 mesi, non fa sì come dicono. Ah, così è, vabbè. È buono, vabbè. Sì. No, io la pastiglia. Mi ho risolto, perché poi caspita, mi accorgo che anche il pelo, le cose, lo fa più, dai, più bello. Adesso sabato, venerdì sera li porta tutti e due a lavare. Se bella giornata li posso lavare anche io qua fuori, però se c'è un po' di fresco vado dove c'è Maurice, dai, in quel lavaggio lì che c'è il lavaggio per i cani, molto pulito, e li lavo lì, mi porto a casa e gli do la pastiglia, così so a posto. Iniziano il trattamento per l'estate. Anche loro, ragazzi di casa. Io per esempio adesso ho iniziato, adesso non so se è il periodo che ha anticipato delle zecche o cosa, io al pastore fornese non gliel'ho mai trovato zecca attaccata, capito? E te l'ho detto, il mese scorso ne aveva una attaccata alla testa, infatti gliel'ho tolta. È tutto anticipato, tutti. Non ti accorgi che ci sono già le zanzare? Allora, mi sono accorto che ci sono già le zanzare già da 2 settimane, almeno qua. Poi tornando al discorso di poc'anzi, Maurice dove si trova? Cazzo, cioè, ma vedi che sono sciolto? Hai visto dove c'è, tipo, sì, l'AMD? il globo, l'MD? Sì. Ok, devi girare a destra per andare, c'è l'Eurospin dove c'è l'Agricola Sassarese. Ok, invece andare di girare per l'Agricola Sassarese, va un po' più avanti, giri a destra e c'è l'Eurospin lì. Eurospin e Mauris. Ah, ok. Vabbè, no, io pensavo, perché stavo pensando, siccome mia sorella la porta in via del Porto Torres, dove c'è Pinocchio, là, dove c'è ex Pinocchio. Ah, ok. No, io lo porto lì, in quel lavaggio che c'è di lui più avanti, è molto pulito quel lavaggio, eh. Così li lavo tutti e due, sarà, devo andare con l'incerata, eh? Sarà una guerra di quelle mondiali, però... Poi è bello perché li puoi asciugare, li puoi fare, anche qua io li asciugo con la pistola termica. sì, ce lo so, ma poi c'è anche quello che aspira l'acqua, il pelo, dai, questa roba qua. Sì, ti dà tutto, c'è il phon, l'aspirapelo, c'è a tutto, l'acqua calda, non è che lavivo l'acqua fredda, è lì lavivo l'acqua tiepida, quindi è un trattamento diverso. Non uso lo shampoo che hanno quei macchinari, uno shampoo io. Ho pagato 26 euro, ne manco io dovevo comprare lo shampoo da 26 euro, e li lavo con quello d'estate, una volta al mese prendo e li lavo. Lo so, ma vabbè, quello sì, questo si sta emozionando troppo, però adesso è già due volte che si è aperto, vabbè. Non deve essere una cosa bella, Tino. Non deve essere una cosa bella, fratello mio. Io non ti invidio, perché quando mi si emoziona uno qua e si emoziona anche l'altro, puoi capire che me li metto qua dove c'è la cameretta delle radio, i giochi della bambina, e non puoi capire, qua c'è da esplode il tetto, è uno schifo, mi viene voglia di strangolarli, maledetti, però non lo posso fare, fanno una puzza demoniaca, una puzza schifosa. Per carità, va bene, dai. Mi devo alzare perché sta per cadere il tetto. Il tetto c'è apribile come macchina. Maledetti quanto puzzano quando si aprono. Anzi, mia, a proposito del tetto, oggi avevo il tetto aperto della macchina, non so mai, che magari stanotte piove. Ha dato pioggia. Va bene Tino. Dai, ce la ascoltiamo domani, poi giovedì, tanto io sono a Sassari e passo a trovarti, che ricordati quello a fare, quella stecchina, quella stecchetta, che così facciamo quell'apparecchio. Dai, ti ringrazio dalla compagnia, Franco non si è fatto sentire, poi siamo noi che non entriamo in radio, non si è fatto sentire, se lo senti salutamelo. Buonanotte a te, a QRA familiare, Tino, grazie di nuovo per la compagnia, a domani, ciao. Sveglia, va bene, no, quell'affare ce l'ho sempre in macchina, anzi ne volevo approfittare se hai tempo, però se ti metto anche il microfono e mi guardi questi fili che fanno contatto, se non hai impegni, se no lo lascio così. Quello lo guardiamo sabato mattina con la radio, T. Ah, ok. Va bene, lo lascio qua. Insomma, avrei caricato in macchina. Va bene, Gabi, dai. Ci sentiamo prima domani, nel caso. Ce l'ho in macchina, non c'è problema. Andai, buonanotte e tante cose belle a te e al tuo corriere familiare, dai. Buonanotte, ciao. Ciao Tim. Ciao, buonanotte. E poi Franco qua non c'entra. Adesso provo a chiamarlo nell'altra radio. No, Franco non entra perché dice che intanto non c'è nessuno e non accende neanche il radio. Però se lui la radio non la accende, non c'è mai nessuno, però se lui la radio la prende, la accende, rimane, oppure gli mette il volume un pochino alto, un po' di squelch, ci sente a parlare, ci sente sia qua, ci sente sia là, se mi affaccio alla finestra e urlo mi sente, quindi è lui, non siamo noi, è lui, che sia chiaro. Adesso aumento il watt un pochino, lo dico a tutto il mondo.